Lunedì 10 marzo sta per iniziare una nuova puntata di Impatto, trasmissione contro le nocività. E iniziamo subito con gli argomenti di oggi. Parleremo abbondantemente della situazione della Calabria. La questione dei rifiuti in Calabria si fa accesa, in particolare fra le zone di Catanzaro e Cosenza. Sentiremo infatti dei compagni che ci parleranno delle situazioni della discarica di Battaglina in provincia di Catanzaro e del Celico a Cosenza. Passeremo poi in volata a parlare della discarica di Brindisi, sempre del benamato Cerroni, e poi aggiornamenti da Fukushima. Ricordiamo a tutti coloro che volessero scriverci che la nostra email è impatto@